Buonasera, bentornati a Tabula Rasa. Siamo qui col nostro prossimo ospite e si tratta di Liv Ferracchiati, che ringrazio e saluto e gli do il benvenuto a Tabula Rasa. Grazie Liv di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Buonasera Liv. Allora, noi siamo qui a parlare del suo esordio alla narrativa. Sarà la fine del mondo, è un romanzo di quasi 500 pagine, edito da Marsilio, e diciamo che un esordio di quasi 500 pagine è un po' l'incubo di qualsiasi editore, perché ovviamente è un libro lungo che arriva in libreria da, diciamo, un autore esordiente, ovviamente spaventa un editore. Quindi grandi complimenti a Marsilio di aver trovato questo autore. Ma la cosa che bisogna dire però in realtà è che Liv Ferracchiati non è un esordiente puro. Liv Ferracchiati è uno dei più importanti autori teatrali italiani, è un drammaturgo, è un regista, anche se non ama la definizione di regista, è anche a volte attore, diciamo, dei suoi spettacoli, e soprattutto è una persona che ha a che fare con la parola scritta e parlata, quindi una persona che in qualche modo usa lo strumento della parola per rappresentare se stesso, le sue storie, e anche come strumento di conoscenza. In più dobbiamo dire che il libro è godibilissimo, il libro si legge veramente in maniera veloce. Sì, sono 500 pagine, ma sono 500 pagine divertenti. Il lio narrante è un lio narrante molto brillante, è un lio narrante che ha uno sguardo molto disincantato sulla società che racconta, e oltretutto la società che racconta attraversa molti anni, perché praticamente inizia dal 1984, che è l'anno di nascita del protagonista, fino a un ipotetico 2078. Quindi noi capiamo che il nostro lio narrante in realtà è un brillante 93enne che racconta e ricorda nel momento stesso in cui la racconta a noi la sua storia. Ora, il protagonista si chiama Guglielmo Leon. Guglielmo Leon è un nome che il protagonista si è scelto, e io lo dico perché? Perché Guglielmo Leon è un uomo transgender, quindi un uomo che è nato in un corpo femminile, a cui è stato assegnato un genere femminile e che però sin dalla primissima infanzia si è riconosciuto nel genere maschile. La mia prima domanda parte proprio da questa definizione e chiedo all'autore, quanto è limitante o quanto limitiamo la conoscenza e la comprensione di Guglielmo Leon dicendo che è un uomo transgender o semplicemente che è un uomo transgender? Cos'è invece Guglielmo Leon nella mente di chi Guglielmo Leon lo ha creato, pensato e poi messo su carta? Beh, Guglielmo Leon è un personaggio per me immaginario, è un personaggio che ha tante sfaccettature, che ha tante caratteristiche, tra cui anche, perché non va esclusa chiaramente quella dell'essere un uomo transgender, però è vero che se si inizia la lettura prendendo come presupposto questo, secondo me non si troverà quello che si cerca davvero, e presentandolo così è un po' fuorviante anche come consiglio e indirizzo di lettura, perché credo che non sia trattato il tema del transgenderismo. Intanto non è centrale, anche se chiaramente è un pilastro, e poi forse viene trattato in maniera un po' diversa da quello che poi è il modo comune di narrare questa sfaccettatura dell'essere umano, questa varianza di genere. Il modo non comune, che poi chiaramente si sta trasformando via via che il tempo passa e via via che la consapevolezza sull'argomento e sulla tematica e su cosa significa essere appunto una persona transgender aumenta nelle persone. Però, diciamo, il modo non comune di trattare l'argomento è che questo personaggio intanto a questo personaggio succedono tante cose mentre è transgender. Non gli succede qualcosa perché è transgender. Lui è transgender e nel mentre vive una vita piena di tante avventure, un personaggio appunto avventuroso, rocambolesco, anche un po' eccentrico, no? E si trova, come dire, ad affrontare questo aspetto della sua vita in maniera particolare, perché se in tutta la prima fase cerca di riconoscere la sua identità, di ricomporla, a un certo punto, quando vive al maschile e tutti fanno sì che questa sua questo suo genere maschile venga riconosciuto, lui piano piano lo scompone perché si sente dentro un'altra gabbia, si sente dentro un'altra gabbia che è quella dell'identità maschile, che è un altro modo di essere, in qualche modo, di trovarsi dentro una recinzione, esattamente come era per il genere femminile. Quindi piano piano cerca di liberarsene a fatica, perché poi è cresciuto all'interno della nostra società, che lo dà come presupposto basilare proprio per riconoscersi, identificarsi e vivere secondo un canone prestabilito, che lui rifiuta. Però sì, io in realtà mi batto molto su questa faccenda di non dire che io sono un autore transgender, non dire che il personaggio è transgender, non perché non sia la verità, non perché si voglia nascondere, anzi è necessario ancora oggi come dire, fare questa precisazione. Però come dire, sogno un momento in cui non sarà più così importante delimitare una persona con queste definizioni, perché di fatto le persone sono persone al di là di queste definizioni che vanno a specificare. Benissimo. E allora, tornando appunto, tu sei un autore teatrale, come ho detto nell'introduzione, quindi uno che usa le parole ma usa anche il corpo, il suo oppure quello di altre e di altri. E io mi sono chiesta, ti è mancato il corpo, la performance nella scrittura narrativa, o hai provato a trovare un simulacro? Allora, mi è mancata soprattutto la presenza dell'altro, cioè del pubblico, del lettore, perché solitamente a teatro il pubblico è lì in carne e ossa, è lì con le sue reazioni, con le sue pulsioni, con il respiro, no? Si innesca immediatamente un dialogo che può essere felice o no, però comunque c'è subito una risposta. Quando ovviamente si scrive, tu non sai che effetto fa quello che scrivi. In più io, hai detto più volte, sono un autore teatrale, quindi scrivo per il teatro, però mentre vado in scena io cambio il testo, perché è una continua ricerca fino a che non si trova davvero la quadra, fino a che il testo davvero e lo spettacolo, poi il testo spettacolare, mi verrebbe da dire, davvero non nasce, e quindi a quel punto si smette anche di modificarlo, no? Trova una sua forma compiuta, però per tanto tempo io lo modifico. Questo con la letteratura non è possibile, ed è la cosa che più di tutti mi è mancata, perché adesso che mi trovo anche, per esempio, a registrare l'audiolibro, vorrei fare dei cambiamenti, qualcuno le faccio, però chiaramente non è possibile lavorare come in teatro, quindi mi è mancato il corpo dell'altro più che non il mio. E però quello che ho cercato di fare è relazionarmi a questo lettore un po' come se fosse uno spettatore teatrale, senza snaturare, spero, troppo la forma letteraria del libro, cioè cercando di coinvolgerlo. Dato che lo hai anticipato, allora io salto una domanda che c'era adesso e passo invece alla domanda sul lettore, diciamo così, di questo libro, nel senso che la voce narrante, il protagonista di questo libro, Guglielmo Leon, a volte, anzi non a volte, spesso, si prende una pausa dal racconto della storia e si rivolge direttamente a chi sta leggendo in questo momento, quindi a questo lettore, proprio gli dice: caro lettore. Ecco, a volte lo fa per spiegare meglio un concetto, a volte, ed è il momento, devo dire, in cui mi sono divertita di più e in cui ho riflettuto di più, a volte chiede al lettore, per esempio, se ha visto un determinato film, oppure di mettere in pausa la sua lettura e di accendere la radio o mettere un disco, oppure, a volte, che per me è la cosa più divertente, di chiudere il libro e di andarsi a leggere un altro libro o un altro autore se non l'ha ancora letto. Perché? Perché in qualche modo va a completare il discorso di quella pagina che sta leggendo. Questa forma narrativa ibrida, che ho amato tantissimo e che sicuramente permette a chi legge di sentirsi coinvolto e quindi mantiene l'attenzione della lettura, è un po' quel lector in fabula di Umberto Eco, insomma, no? Ci sentiamo totalmente dentro la storia. Oltre a fare questo, che è già tantissimo, a mio parere permette all'autore, in questo caso, di chiedere una mano ad altri linguaggi che in qualche modo completano un'enciclopedia personale di chi sta leggendo, no? La nostra cultura di esseri viventi, che può essere una cultura alta o una cultura bassa, perché appunto passiamo da, non so, da citazioni altissime di filosofia a gli 883, per esempio, no? So, quindi diciamo diverse possibilità di inserimento di culture, però aiutano in qualche modo a completare il discorso. E questo mi appunto suscita una domanda. L'autore, in questo caso Liv Ferracchiati, lo fa perché pensa che la scrittura non basti da sola a dare conto della complessità della costruzione di un'identità, e quindi ha bisogno di tutti questi altri linguaggi che vengono da fuori? Ma non so se non basta. Mi piace che il lettore, così come poi lo spettatore in teatro, sia attivo. Mi serve che ci sia una partecipazione. Io non posso tollerare, poi accadrà perché inevitabilmente accade, che ci siano magari delle pagine o dei momenti di uno spettacolo in cui lo spettatore si assenta, diciamo chiude il contatto per poi ricollegarsi a quello che sta leggendo o vedendo più avanti. Per me è un'ossessione insopportabile, per quello che cerco sempre di creare un linguaggio che coinvolga poi anche altri linguaggi, che sia in qualche maniera attivante di azioni proprio per chi è poi dall'altra parte. Prima di tutto credo sia questo il motivo, e poi in seconda battuta mi deriva dal teatro, che comunque è un'arte spuria che coinvolge anche altri linguaggi. Cioè il teatro è fatto della parola, è fatto del corpo, è fatto delle luci, è fatto delle musiche, delle sonorità, è fatto dello spazio. Per questo per me rimane anche nel momento in cui vado a scrivere una possibilità, e siccome in questo libro, con questa voce narrante che dialoga con il lettore, è possibile farlo, ho cercato di coinvolgere il più possibile anche altri linguaggi. E poi mi diverte l'idea che un lettore, poi chissà se lo farà davvero, chiude il libro, ne vada a leggere un altro e poi torni e comprenda meglio quello che c'è scritto nel mio. Io l'ho trovata una forma veramente interessante, e quindi insomma ti faccio i complimenti per questo. E torniamo un secondo indietro e torniamo al corpo. Guglielmo Leon è un uomo del futuro, non soltanto anagraficamente, cioè vive il suo presente nel 2078, quindi un futuro, diciamo così, possibile, ma lo è anche da un certo punto di vista nell'accezione filosofica che permea il tuo romanzo, cioè un uomo che ha la sua identità compresa in questo nome che si è scelto, e lui può essere soltanto Guglielmo Leon. È un uomo anche se è nato in un corpo femminile, lui non vede una differenza fra il suo corpo e quello, per esempio, di suo cugino, che magari è un po' più bruttino di lui, o anche, diciamo, rispetto al suo compagno di squadra, al suo compagno di classe che gioca a calcio molto bene, una differenza che però gli altri e le altre vedono. Nonostante ciò, nonostante lui sia un uomo del futuro, sembra però in tutto il romanzo ossessionato dal corpo, da questa naturalità del corpo, cioè da quello che c'è in questo corpo e quello che manca. E quindi questo mi ha fatto, appunto, mi ha ispirato un'altra domanda, cioè volevi con questo in qualche modo mostrare una sorta di percorso obbligato per la costruzione dell'identità, cioè passare attraverso comunque il corpo, litigarci, decostruirlo, allontanarsi da questo corpo per poi infine accoglierlo così com'è e diventare Guglielmo Leon? Quindi il protagonista deve fare questo percorso per poi diventare Guglielmo Leon? Penso di sì, penso che sia un percorso che fa chiunque in realtà, perché il corpo è qualcosa di concreto che con le sue forme condiziona la nostra identità, perché condiziona quello che vedono gli altri, per cui siccome poi la nostra identità, di certo non lo dico io, viene performata anche attraverso lo sguardo degli altri, chiaramente il corpo è qualcosa con cui confrontarsi continuamente, sia che ci compiaccia, sia che ci dispiaccia. In particolare poi in questo non si può dire che non incida, cioè Guglielmo Leon è una persona transgender e quindi c'è una discrepanza tra quello che in qualche modo il suo corpo gli offre e quello che lui percepirebbe di essere, mi viene da dire. Il punto è che tanto, a mio avviso, è dato dai canoni culturali, dall'immagine che noi vorremmo ottenere, che è data dalla cultura in cui siamo immersi. E questo è qualcosa che non riguarda solo le persone transgender, perché il corpo perfetto, ad esempio maschile, il corpo muscoloso, non è una, come dire, una chimera a cui ambiscono solamente gli uomini transgender, ma anche gli uomini cisgender, come si dice tecnicamente, no? Eppure chi dice che quello sia davvero il modello di corpo maschile, per fare un esempio, spalle larghe, il bacino stretto, tantissimi uomini per conformazione naturale hanno i fianchi larghi e le spalle strette, per esempio. Uomini, intendo maschi, maschi nati con appunto DNA, insomma con cromosomi maschili, per cui questo aspetto non ci pensiamo, ma condiziona tantissimo le nostre esistenze, condiziona tantissimo quello che facciamo, il nostro aspetto fisico, il nostro corpo. In più, per Guglielmo Leon il corpo è mancante per lui anche di un modo di esprimersi, nel senso che non riesce ad esprimere completamente se stesso, o almeno nella prima parte della sua vita crede di non riuscire ad esprimere parte di sé, perché il suo corpo non è quello maschile, non è un corpo maschile. Poi in realtà capirà che è appunto tanto influenzato dalla cultura, e in qualche modo anche molto dalla pornografia, da come viene veicolata, dal modello sessuale che è impregnato di machismo, no? Adesso non voglio usare termini poi troppo che vanno poi in delle direzioni precise, però è la verità, e tra l'altro questa influenza non la subisce solamente lui, ma subisce anche chi come lui si aderisce a un modello maschile, malgrado abbia un corpo un corpo maschile, in vero senso della parola, biologicamente, tant'è che per me è fondamentale un capitolo che è il 2015, dove si confronta con un suo amico maschio e si confrontano sulla sessualità e hanno di fatto più o meno gli stessi crucci. Questo vuol dire che la cultura poi incombe su tutti da questo punto di vista, e bisognerebbe liberarsene perché staremmo meglio nella vita di tutti i giorni e nella sessualità e anche nel vivere il proprio corpo. Sì, io in questo mi rivolgo invece a chi ci sta ascoltando. Questo romanzo è veramente pieno di spunti e di riflessioni, e vi assicuro che una delle parti per me meglio affrontate è proprio la questione del desiderio. Questo libro è pieno di desiderio, e il desiderio che passa attraverso i corpi e attraverso la sessualità. E Guglielmo Leon è un personaggio che ama tantissimo, e devo dire è anche molto amato anche in maniera passionale da tantissime donne in tutte le età della sua vita, fino a che, passando ovviamente come tutte e tutti noi in storie passionali, tristi, in grandi amori e grandi ferite, fino a che arriva. E devo dire, mi è piaciuta molto questa scelta, arriva una donna che in qualche modo completa il nostro protagonista, lo completa in tutti i sensi, lo completa sia nella vita, perché decide che quella donna è la donna che sposerà. Allora siamo appunto in un futuro immaginato dall'autore, no? Una donna che sposerà, oltretutto adesso per fortuna il nostro paese sta cambiando, lentamente, ma sta cambiando, e quindi un futuro con una donna che sposerà, con cui avrà dei figli. E questa scelta, che può essere in qualche modo vista come una scelta normalizzante, questo termine che fino a un po' di tempo fa era un termine molto richiesto dalla comunità LGBT, che adesso invece sta diventando più conflittuale e problematico, in realtà in una storia come questa per me dà proprio il senso di quello che l'autore vuole raccontare e vuole dirci, cioè parlare, diciamo, di una costruzione dell'identità che passa attraverso tante fasi, ma che aspira alla felicità, e la felicità è un'aspirazione importante nella vita di chiunque. E io penso che Liv Ferracchiati abbia scritto un romanzo politico avvincente, divertente, molto ben scritto, ma anche molto politico, e per in qualche modo entrare verso, diciamo, quella che può essere considerata la parte politica di questo libro, volevo fare questa penultima domanda proprio su questo. Nel Presiado, che è un autore sicuramente che Ferracchiati conosce. Nel suo ultimo libro, Sono un mostro che vi parla, Paul Preciado dice che siamo nel mezzo di un cambiamento di paradigma, cioè da un'epistemologia della differenza sessuale stiamo passando attraverso una rivoluzione, e le rivoluzioni non sono mai, diciamo così, pacifiche, sì, sono rivoluzioni faticose. Appunto Paul Preciado dice che la libertà è un tunnel che si scava a mani nude, e quindi queste mani si feriscono, però si sta passando, lui dice che ce la stiamo facendo, si sta passando da un'epistemologia della differenza sessuale a un'epistemologia trans, e lui dà a questo termine una complessità che non si limita soltanto al, appunto, al transgenderismo di tipo sessuale. E io volevo chiederti, Liv, se sei d'accordo, cioè lo vedi questo cambiamento o è solo un auspicio filosofico dell'autore? No, io sono piuttosto d'accordo, ritengo che ci vorranno ancora molti anni, nel senso che qualche decennio ancora lo impiegheremo per arrivare proprio alla fine del viaggio che sta iniziando proprio adesso, contemporaneamente alle nostre vite, no? In qualche modo, è iniziato ovviamente dagli anni 70 del Novecento, però insomma, diciamo, è adesso che inizia la vera e propria lotta, e l'immagine delle mani nude che scavano il tunnel della libertà è molto vera, perché ci si ferisce, ci si fa del male, però si ha anche la soddisfazione di aver scavato un po' di più giorno dopo giorno. Ovviamente è una battaglia, cioè non, proprio quotidianamente io la sento sulla mia pelle, ma penso che la sentano tutti quelli che hanno aperto gli occhi in questa direzione, no? Credo che non solo sia auspicabile, ma che davvero stia accadendo, che ci sia questo passaggio in atto, e passa anche attraverso una chiacchierata come questa che stiamo facendo io e te. Perché magari qualcuno ascolta distrattamente, si pone un problema che prima non si era posto, comincia a accorgersi che l'identità alla fine è una rappresentazione, che quindi fluisce, che quindi si costruisce, ma si può anche decostruire, che può cambiare, che bisogna essere forse un po' meno patriottici a livello identitario ed essere più liberi e aperti. Ecco, questo è una cosa molto importante, e passa anche attraverso un tentativo, riuscito o meno, non posso dirlo io, come può essere quello di scrivere un libro in cui, mi riallaccio a quello che dicevamo all'inizio, un personaggio è un personaggio, punto, e non è un personaggio transgender, e la narrazione del transgenderismo, se c'è, non è ad esempio vittimistica, ma è narrata da un punto di vista di un personaggio che, con appunto i suoi clamorosi errori, con i suoi clamorosi fallimenti, però di fatto è un vincente, perché ambisce alla felicità e in qualche maniera la raggiunge anche attraverso questa donna che incontra, questa Livia, che a differenza delle altre donne che ha amato prima, è una donna che ha i capelli biondi. E che lo libera anche da quel complesso, quasi mi vorrebbe dire freudiano, nei confronti della madre, no? E che in qualche maniera rappresenta il suo lato femminile. Per me simbolicamente Livia è abbracciare e accogliere la sua femminilità, e quindi non lottare più contro di questa, ma abbracciarla, renderla una parte di sé, quindi potenziare il suo essere al 100%. E riguardo anche al fare una, come dire, a realizzare, alla costruzione di una famiglia, e quindi all'avere anche dei figli, secondo me è rivoluzionario da parte di un Guglielmo Leon fare una scelta del genere, perché di solito, normalizzante o meno, una persona transgender è considerata come un'emarginata, e quindi qualcuno che sta al di fuori, che non può ambire ad avere una struttura magari familiare dove semplicemente si coltivano i propri affetti, no? E quindi poi normalizzante, Guglielmo Leone, è difficile normalizzarlo, anche per una famiglia e una moglie è difficile che sia normalizzato, però questa ambizione anche a un calore domestico è rivoluzionario in realtà per un personaggio come lui. Bene, questa cosa del calore domestico rivoluzionario mi piace tantissimo. Aggiungo soltanto che Livia è l'unico personaggio femminile che ha un nome, diciamo che ha un reale nome nel senso che le altre sono definite con dei nickname, chiamiamoli così, che oltretutto amo tantissimo, tipo appunto Occhi Verdi, evidentemente perché ha gli occhi verdi, e soprattutto Baffetti, che è la mia preferita, perché anche io purtroppo da piccola avevo quel problema, e quindi diciamo mi ci sento molto vicina. E Bene, siamo praticamente arrivati alla fine dell'intervista. Come da tradizione, Tabula Rasa termina sempre chiedendo ai nostri ospiti un consiglio di lettura, quindi un libro che stai leggendo in questo momento, Liv, che ti sta particolarmente piacendo e ci vuoi consigliare, oppure un libro che pensi assolutamente nella vita bisogna leggere. Ma io non posso che non consigliare un libro che consigli. Consiglierebbe anche Guglielmo Leone, cioè Padri e figli di Turgenev, non potrei fare un torto a Guglielmo Leone, non consigliare questo, perché il fatto di credere o non credere alle rane a lui sta troppo a cuore, quindi lo devo menzionare. Bene, quindi un grande classico e speriamo che, insomma, chi ci sta ascoltando, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori seguano i consigli di Liv Ferracchiazzi. Io ricordo a tutte e a tutti che Sarà la fine del mondo è un libro che trovate in libreria, in tutte le librerie italiane, lo potete ovviamente andare a comprare in libreria o ordinare nei siti delle librerie, e è un romanzo Marsilio. Noi ringraziamo tantissimo Liv Ferracchiazzi, facciamo l'in bocca al lupo, anche se probabilmente per il teatro non si dice così, però per tutto i suoi prossimi impegni lavorativi, e speriamo di averlo magari presto per un altro libro. Quindi speriamo che insomma la sua carriera continui anche nella narrativa. Quindi grazie, grazie Liv, grazie di essere stato con noi. Grazie.